presso il tavolin giocando il piccolo bebè, gioca coi soldati che il buon papà gli die. Ecco le schiere là, già pronte in fila per marciare, ma il piccolo un bel far, non possono avanzare, perché sbarra il cammin dei fieri soldati, piantata proprio là la pipa di papà. Soldatini di ferro così, par che marcino e fermi stan lì. Chiede il bimbo, papà, per favor, sai tu dirmi se in petto hanno un cuor? Sorridendo il papà dice no, sono tutti di ferro e perciò i soldati che vedi tu qui sono fatti soltanto così. Oggi non c'è lezion, bebè fa feste a casa sta, apre il suo scatolo e i soldati in sollà. Ma dalla strada viene un suon di banda militare, tralascia di giocare, s'affaccia per guardare. Sono altri soldati con tanti benastri, e non gli arresta la pipa di papà. Soldatini di ferro così, chiede il bimbo, papà, per favor. Questi marciano e quelli stan lì, sono fatti di ferro anche loro. Serio in viso il papà dice allora, son di ferro ma in petto hanno un cuore. I soldati che vedi tu qui sono fatti davvero così.